Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, vi aspettavo, sono le 11.06, abbiamo in regia la parte tecnica Giorgio Matè, in redazione Laura Vanossi e come sempre abbiamo preparato i titoli del nostro sommario che andiamo a sentire. È questione di ritmo, in vacanza e dopo un lungo viaggio. Una dieta capace di conciliare geni e gusti. Rimedi anti-zanzare. Se volate, restate. Se avete in programma un lungo viaggio, America, Asia, Australia, Africa, insomma, se pensate di stare in volo ore e ore e quindi di fare i conti con il jet lag, la puntata di oggi per voi è una manna, perché abbiamo in linea uno, se non il massimo esperto di cronobiologia, la scienza che, partendo dall'osservazione dei ritmi biologici, riesce a spiegare una serie di fenomeni, anche di patologie, compreso anche quello stordimento da viaggio, chiamiamolo così, il jet lag. Saluto il professor Manfredini, direttore dell'unità operativa di medicina interna, ospedale del Delta, ASL di Ferrara. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Certo che se partiamo così con questa presentazione, il minimo è che mi mangio lo stipendio per l'abbonamento a vita al caffè brioche per lei e la redazione. Magnifico, poi io guardi che a colazione mangio parecchio, quindi si prepari. Senta, professore, però io ho detto se volate restate, però c'è anche chi non vola, chi in vacanza non andrà neppure, andrà vicino per pochi giorni. Però noi abbiamo delle buone ragioni per invitare anche questi amici all'ascolto a restare, perché oggi con lei, parlando di cronobiologia, potremo quindi parlare anche di cronotipi e quindi aiutare i nostri amici da casa a individuare le ore del giorno e della notte più congeniali. Certo, è vero, non tutti vanno in vacanza, non tutti volano, anzi molti continuano a lavorare come noi e alcuni per esempio fanno dei lavori che prevedono una turnazione, magari dei turni di notte, oppure devono alzarsi molto presto la mattina, insomma possono ricadere nei disturbi dello spostamento dei ritmi, esattamente come il jet lag, per cui penso che gli ascoltatori sapranno metterci in difficoltà come al solito con le loro domande. Tanto deve rispondere lei, professore. 824 0024, questo è il nostro numero per intervenire, per mettere in difficoltà, magari ci riuscite il professor Manfredini, ma credo sarà molto difficile. Quindi consigli per i viaggiatori, tra l'altro sono uscite delle ricerche interessanti sul jet lag per ridurre il più possibile, no? Lo sfasamento da fuso, la scienza, la tecnologia si sono messe al lavoro, avrete sicuramente sentito parlare o ha letto della pillola anti jet lag, ma anche di un software e di una strategia alimentare, di una dieta che combinando ad arte carboidrati e proteine dovrebbe aiutare il nostro orologino interno a prendere velocemente il nuovo ritmo. Di tutto questo il professor Manfredini vi parlerà nel dettaglio, vero professore? Assolutamente, sono tantissime cose, mi sono attrezzato con la tenda, con le vivande, perché sarà una cosa lunga immagino, abbiamo fino a stasera. Allora, mi piacerebbe molto, e ne avremo sicuramente da dire, da raccontarci, ma insomma cercheremo di dare voce ai nostri ascoltatori, quindi anche per voi che non volate restate, perché approfitteremo del professor Manfredini per farci aiutare, direi, a prendere il ritmo giusto anche in vacanza. In fondo, professore, nei primi giorni di vacanza tutti noi siamo un po' storditi, sfasati, perché è difficile cambiare il ritmo. Ad esempio, molti di noi salutano le vacanze con un bel cerchio alla testa, esce fuori tutta la stanchezza accumulata e siamo lì un po' rimbambiti, privi di forze, non abbiamo voglia di fare nulla e intanto sappiamo che le vacanze, il tempo corre. Quindi, professore, io vorrei che lei aiutasse anche tutti i nostri amici da casa che bene o male sanno per esperienza che si ritroveranno in questa situazione. Certo, devo dire che esistono delle piccole regole, se vogliamo, forse anche banali, però per esempio tutti noi quando andiamo in vacanza scatta che il giorno prima si lavora e il giorno dopo si è in vacanza, quindi bisogna fare mille attività, ci si butta fin dal primissimo giorno di vacanza, voglio vedere questo, fare quest'altro. Un attimo, se uno cerca di adattarsi un minimo, per esempio agli orari e ai ritmi della località dove si trova. E guardi, non c'è bisogno di volare a 10 ore, pensiamo alla Spagna, un volo di un'ora e non c'entra niente, però la loro organizzazione della giornata fa sì che, per esempio, esperienza personale, avevo fame, sono un italiano del nord e sono andato a cena alle 8:30, stavano mangiando i camerieri, mi hanno cacciato. E quindi anche solo per andare in Spagna, effettivamente, non so, si va a letto alle 4 di notte, ci si alza a mezzogiorno, bisogna piano piano adattarsi ai ritmi del posto dove si va, è la prima regola. 800 24 00 24, la prima regola ve l'abbiamo data, ma ce ne saranno diverse, tanti suggerimenti, accorgimenti per riprendere il ritmo nel modo migliore, quindi aumentare il nostro livello di benessere. I messaggi al 349 238 6666. Il professor Manfredini resta con noi. Una mela al giorno. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è messo a dieta, e alzi l'altra mano chi dopo aver seguito una dieta si è ritrovato a pesare come prima o a distanza di pochi mesi più di prima. Tra le ragioni che possono spiegare questi fallimenti c'è l'abitudine a seguire diete che con noi hanno poco a che fare, non personalizzate, per usare un termine più corretto. Ma gli esperti sono al lavoro e nel prossimo futuro il regime dietetico verrà cucito addosso, proprio come un abito su misura. A questo sta lavorando da anni la nutrigenomica, la scienza che, prendendo in esame alcuni geni, è in grado di costruire una dieta nutrizionale personalizzata, capace quindi per le sue caratteristiche di assicurare al nostro organismo tutto quello di cui ha bisogno per funzionare bene e quindi per mantenersi sano. Ma oltre ai geni c'è di più, e ce lo facciamo raccontare dal professor Paolo Gasparini, genetista dell'Università degli Studi di Trieste. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, prendi un team di genetisti, aggiungi biologi, ingegneri, nutrizionisti, mi verrebbe da dire shaker a tutto, ma insomma, mettili in un polo scientifico nazionale come quello dell'area Science Park ed ecco che il progetto di una dieta su misura diventa realtà. Una dieta che tiene conto dei geni, ma anche del gusto. Professore, questa mi sembra un'idea molto interessante. Sì, è un progetto che si chiama GDA, che sta diventando ormai nelle prossime settimane una realtà ufficiale, con una vera e propria azienda, e mette insieme, come lei giustamente ha detto, gli aspetti della nutrigenetica, una disciplina nuova che studia appunto il rapporto tra geni e nutrizione, ma gli aspetti del gusto, sia a livello, diciamo, di quello che è la percezione di ognuno di noi, ma anche di quelli che sono i geni che determinano la capacità diversa che ognuno di noi ha di percepire il gusto, le preferenze alimentari, un altro aspetto assolutamente innovativo, e ovviamente anche l'approccio tradizionale, quindi quello che i nutrizionisti usano nella loro routine quotidiana, quindi i diari alimentari e tutto quello che è connesso con la realizzazione di una vera e propria dieta. Professore, quindi geni e gusto, queste sono le informazioni che vi servono per delineare il profilo, ma quali sono gli esami e i test necessari? Ma i soggetti che hanno per esempio già fatto anche un primo trial e che quelli che poi acquisteranno il prodotto dovranno semplicemente fare uno sciacquo buccale. Da questo sciacquo buccale noi prenderemo le cellule, verranno prese le cellule dagli esperti dell'azienda e viene estratto il DNA. Lì su quel DNA si fanno i test, sia per quelli che riguardano i geni che hanno a che fare con il metabolismo degli zuccheri, dei lipidi, alcuni stili di vita come la capacità di fare attività più aerobica piuttosto che anaerobica, e dall'altra anche i geni che sono coinvolti direttamente con il gusto e in un prossimo futuro con le preferenze alimentari. Poi ovviamente c'è da compilare tutta una serie di questionari, da fare un test per il gusto e da compilare il diario alimentare. Alla fine i nutrizionisti mettono tutte queste cose insieme e ritagliano una dieta personalizzata per l'individuo. E voilà, insomma, proprio come un abito cucito su misura, di alta sartoria però. Certamente di alta sartoria. L'importanza è quella di unire metodi tradizionali, perché ovviamente la nutrizione si è sviluppata nel tempo utilizzando metodologie che sono ormai consolidate nel tempo, con tecnologie innovative e quello che in parte è scritto nei nostri geni, che migliaia di anni di selezione hanno in qualche maniera contribuito a scegliere. Professor Gasparini, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci del tema del giorno. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini. Oggi una puntata ricca che ci porterà lontano e direi di iniziare subito ad occuparci di chi volerà dall'altra parte del mondo e quindi, volente o nolente, fare i conti con quella serie di sintomi che vanno sotto il nome di jet lag. Professor Manfredini. Sì, diciamo che il volare espone a due grosse famiglie di disturbi che qualche volta vengono confusi. Sì. Una è la fatica da viaggio, uso il termine italiano perché sarebbe la definizione ormai anglosassone, però la traduciamo con fatica da viaggio, che va molto bene. Sì. E l'altro è il vero e proprio sindrome del fuso orario, il jet lag. Mi spiego. Supponiamo che prendiamo l'aereo dall'Italia e andiamo in Sudafrica e supponiamo che ci mettiamo 10 ore di volo. E quindi naturalmente è un volo stancante. Certo. Però partiamo alle 10 del mattino, supponiamo arriviamo alle 20. Ma in Italia sono le 20, certo, come in Sudafrica, quindi troviamo gli stessi orari, l'ora di cena, l'ora di andare a dormire, saremo stanchi certamente perché il viaggio, l'alzataccia, l'arrivo all'aeroporto, sappiamo il check-in, il volo, i bagagli, i trasferimenti, quant'altro, ma questi sono disturbi che potrebbero anche essere disturbi del sonno, cioè, legati alla fatica. Sì. Non ha niente a che vedere col jet lag, perché il jet lag prevede che noi invece ci spostiamo sfasando i nostri ritmi, andando a est o andando a ovest. Supponiamo per esempio che invece di andare in Sudafrica da Milano andiamo a New York. Ci vogliono circa 8 ore di volo. Sì. Sappiamo che ci sono 6 ore di fuso per la costa est, quindi vuol dire che partendo a New York, partendo da Milano, arriveremo a New York quando lì è il primo pomeriggio, supponiamo le 2, ma per il nostro orario sono le 8 di sera. Certo. Quindi il nostro organismo nell'ora italiana dice che è ora di cena, in realtà è appena appena pomeriggio negli Stati Uniti, l'ora di cena verrà 4-5 ore dopo, e dico poco perché gli Stati Uniti ci aiutano perché cenano presto, ma noi per noi sarà sempre mezzanotte o l'una, quindi andare a letto saranno le 4 di notte, calcolando che ci siamo alzati presto, il check-in, eccetera. Una bella faticona. Riceve oltre alla fatica una desincronizzazione, si sfasano i ritmi e il primo che parte è il sonno, per esempio. E questo è il jet lag. E questo è il jet lag. E noi abbiamo Sabrina dalla provincia di Imperia che ci chiama all'824 0024. Sabrina, buongiorno. Buongiorno. Lei che fa, vola? Sabato sì, volo. E dove va? Londra-Los Angeles. Londra-Los Angeles. E ci sono una dozzina di ore di aereo con 9 ore di fuso orario. E siccome volo con tutta la famiglia, un ragazzo di 22 anni, una figlia di 18, volevo sapere se c'è qualche consiglio per affrontare meglio questo jet lag. Ha fatto bene a chiamarci. Adesso il professor Manfredini si occupa di tutta la famiglia di Sabrina, li fa volare felici e contenti, atterrare e ridurre quanto possibile questa sindrome da sfasamento del fuso orario. Professor Manfredini, ecco il primo caso. Allora, buongiorno Sabrina e tutta la famiglia. È un bel volo. Quindi effettivamente, come diceva la signora, intanto avrà tutta la parte preliminare, quindi si stancheranno per arrivare già fino a Londra e poi dopo hanno questo lungo volo fino alla costa ovest, quindi agli Stati Uniti. Direi che intanto ci sono alcune piccole regole generali. Sì. Bisognerebbe cominciare, adesso ormai mancano 2-3 giorni, a regolare magari anche già uno dei propri orologi sull'ora americana della California. Sì. Per cominciare a capire in questo momento che ora sarebbero là, per cominciare un po' a farsi un piano personalizzato, non so, del sonno o di quant'altro. Io non, di solito non consiglio la melatonina, per esempio, poi ne parleremo, ma in questo caso già c'è Sabrina, quindi gli diamo qualche consiglio di preadattarsi con la melatonina, però al limite se questa famiglia sa di soffrire il jet lag perché magari ha già volato, e diciamo che i bambini e i ragazzi giovani di solito non lo soffrono tanto, poi ne potremo parlare, perché sono più abituati ad essere sfasati, più diventiamo vecchi e più diventiamo abitudinari, metodici, più lo soffriamo, quindi di solito bambini e ragazzi non ne hanno tanto bisogno. Comunque, al limite, arrivare negli Stati Uniti, il trucco è sempre quello di cercare il più possibile di adattarsi alla vita americana di quel momento, non farsi venire lo scoramento per la stanchezza, fare il pisolino e quindi poi magari saltare la cena e trovarsi alle 2 di notte a guardare la CNN, cercare di arrotondarsi anche facendo molta fatica primo giorno e al limite prendere un po' di melatonina, i dosaggi li potremo vedere, 1 mg, quello che è, all'ora di addormentamento americano, le 9 di sera, le 10 di sera, per cominciare ad agganciare il nostro ritmo, che magari il nostro corpo è tutto un altro orario, aiutare a prendere sonno in quel momento e a provare di fare 5-6 ore di sonno, non saranno mai 8 la prima sera, però per 2-3 sere la melatonina presa verso l'ora di addormentamento. Questi sono dei primi segni generali, poi possiamo parlare di alimenti, tra un po' ne parleremo, eccetera. Certo, perché ci sono state delle ricerche interessanti, poi lo sentiamo, abbiamo sentito, abbiamo letto di regimi alimentari, di dieta, io sì. So che lei ne aveva parlato già in tempi non sospetti in diverse puntate qua a Radio 24, di in qualche modo combinare gli alimenti per affrontare in modo migliore questo jet lag. Certo. Ma si è parlato anche di pillola anti jet lag e di un software. Vogliamo allora così parlare di queste novità, tra virgolette? Certo, intanto bisogna ricordare, me l'ho dimenticato, scusate di dirlo prima, Sabrina, il suo primo volo è un volo verso ovest. Sì. Quindi diciamo che delle due è la situazione meno disturbante, cioè non è uguale volare verso est o verso ovest per quello che riguarda il disagio del fuso orario, il peggio sarà eventualmente il ritorno, perché il volo verso est accorcia la giornata, il volo verso ovest l'allunga. I nostri ritmi, il nostro orologio biologico, che è circadiano, quindi di circa 24 ore, però tende a essere 25-26, cioè un pochino più lungo delle 24 ore tradizionali, per cui quando gli allunghiamo un po' la giornata gli facciamo un dispetto più piccolo. Certo. Quando gliela accorciamo lo mettiamo un po' quindi in più. Andare quindi il volo verso ovest lo soffriranno meno del ritorno in Italia. Viceversa, andare in India o andare in Giappone, l'andata è più disturbante sui ritmi. Questo come primo. Comunque o all'andata o al ritorno ci tocca. Ah sì, certo. Quindi certo. Restate con noi e approfittate del professor Manfredini. Sì, professore, quindi ci sono delle differenze tra volare verso est o verso ovest. Le categorie più a rischio, ne abbiamo già, i ragazzini e i bambini soffrono di meno. Chi è certo. Che soffre di più? Soffrono di più, per esempio, intanto i cosiddetti frequent flyers, quelli che devono viaggiare molto, chiaramente, quindi equipaggi di volo, pensate che per chi lo fa di professione vengono stilati delle vere e proprie rotazioni dei percorsi per ridurgli al massimo l'impatto negativo. I primissimi tempi, quando la cronobiologia e la medicina del lavoro non esistevano, le hostess, per esempio, avevano spesso disturbi del ciclo, i piloti anche non riuscivano a dormire, quindi c'è tutto un problema. Poi, non so, manager, uomini di affari che devono spostare per riunioni magari transoceaniche, atleti professionisti, io ricordo sempre un giocatore di tennis, oggi è in Florida, viene eliminato magari al primo turno, allora prende l'aereo e parte per un altro torneo del circuito che magari è in Europa, poi in Asia. Ma poi andiamo agli accompagnatori, alle guide di viaggi organizzati, arriviamo al turista come Sabrina, quindi effettivamente le categorie sono tante. Professore, si può provare a ridurre? Dunque, ci sono vari accorgimenti. Prima giustamente lei ha citato una delle novità di questi giorni che è un po' su tutti i giornali. Il software per prevedere il proprio jet lag. Sì. È un dato che alcuni studiosi americani dell'Università del Michigan hanno messo a punto. Sì. È una specie di programma proprio computerizzato per personalizzare l'esposizione solare. Noi sappiamo che riceviamo dalla luce o dal buio l'impulso melatonina, dorme, luce, stai sveglio, quindi il sincronizzatore principale per il nostro organismo è la luce. Con questo software aggiornato a dove uno deve andare, alla meta, e un modello matematico che incrocia la luce, il contesto, i fusi orari attraversati e ottiene quindi un prospetto delle ore di esposizione alla luce che uno dovrebbe fare per evitare il jet lag. Diciamo che siamo ad un livello altamente professionale, sì. Cioè questo studio non può essere per me, per lei o per il turista. Attualmente questo software viene utilizzato per esempio piloti militari, la NASA, i ricercatori che vanno in Antartide, insomma siamo a questi livelli. Probabilmente nei prossimi anni verrà anche un po' massimizzato. Intanto io volevo far intervenire Fabio, che ci chiama da Milano, 824-0024, così si vola, almeno magari Fabio volerà. Fabio, buongiorno. Vola o non vola? No, chi vola è mia moglie. Quindi io la domanda è questa, appunto, quali consigli dare a una persona che fa questo lavoro ormai da 13 anni e che per fare un esempio è tornata da San Paolo un'ora fa. Sì. E sabato deve ripartire nuovamente per San Paolo, per esempio. E fra una settimana, dopo 2 giorni di sosta, va a New York. Questo per tutto un anno, fondamentalmente. Professor Manfredini, La moglie di Fabio è sempre in aria. Moglie di Fabio è una delle categorie naturalmente più a rischio del jet lag. Adesso non so, perché ovviamente abbiamo Fabio in linea, ma non so se la signora in questi 13 anni lo ha sofferto poco, molto, perché distinguiamo le persone, non so, una persona su tre lo soffre moltissimo, una persona su tre non se ne accorge proprio e una persona su tre ha dei disturbi modesti. Quindi sì, bisogna vedere se Fabio, Fabio, come, che categoria appartiene sua moglie? Lo soffre poco, tanto? Ti ha fatto l'abitudine? È una categoria che dopo appunto 13 anni di lavoro comincia a soffrirne pesantemente ultimamente. Sì. Facciamo per dire da 2 anni a questa parte, comincia a essere un lavoro più impegnativo di quando aveva ovviamente 25 anni. Ecco. Mm-hmm. Certo, quindi, quindi è sicuramente una, lo ha letto benissimo, diciamo bene, insomma, per 11 anni e poi naturalmente adesso comincia ad avere problemi, anche perché per esempio questa rotazione, che io non so se ce l'ha sempre così, perché di solito mi risultava che le varie compagnie aeree, adesso probabilmente siamo in crisi economica, quindi magari bisogna vedere quanto personale eccetera, le compagnie aeree comunque cercavano di approntare una sorta di rotazione per cui non si mettevano 2 viaggi transcontinentali di andata e ritorno così vicini, voglio dire un Italia Brasile e un Brasile Italia con 48 ore è pesante, cioè è pesante. Pesante, di solito si cercava magari di fare una tappa intermedia, cioè. Comunque sì, il consiglio per la moglie di Fabio è intanto, se soffre jet lag sui disturbi del sonno, cercare di organizzare, anche se la vita sociale un po' ne risentirà, la famiglia magari, organizzare un pochino il proprio sonno, cioè quando arriva già subito pensare che deve tornare in Brasile, per esempio, quindi cominciare a vedere quando è il caso di fare allungare o ritardare l'andare a letto sull'orario dove deve tornare. Sì. E poi aiutarsi eventualmente con, come dicevamo prima, con alcuni costituenti alimentari, per esempio se uno sa che deve stare sveglio perché deve arrivare, deve dormire in viaggio e arrivare sveglio o viceversa, si può aiutare con i pasti, poi ne potremo parlare tra un po', proteine o carboidrati. Le proteine tutte le volte che io devo cercare di tenermi sveglio, i carboidrati quando invece devo aiutarmi a dormire. Questo mi devo regolare per il riposo precedente, perché chiaramente l'assistente di volo o la pilota non può permettersi di dormire in aereo come facciamo noi perché sta lavorando. Ecco, professor Manfredini, noi parleremo proprio di dieta. L'abbiamo letto soprattutto in questi ultimi giorni. Ci sono delle indicazioni precise, mirate, ma io vorrei capire di più se ad esempio questa dieta, questo schema alimentare va bene per tutti, per ogni viaggio oppure no. Quindi restate con noi, andremo a tavola insieme al professor Manfredini per capire come ridurre e contrastare gli effetti del jet lag proprio combinando i vari alimenti. Parleremo anche di ritmo naturalmente in vacanza. Roberto da Modena, lo voglio salutare, poi magari lo traghettiamo con noi dopo i mercati. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io in attesa sentivo che il professore ha accennato un po' al problema che volevo sottoporre, cioè quello di o andare a est o andare a ovest, che c'è una differenza. Sì, sì, sì. Allora, sì. Io per lavoro, ma anche per vacanza, mi capita spesso di frequentare sia le zone est che le zone ovest. Sì. E il problema per me non è tanto l'arrivo, quanto il ritorno, in ambedue le situazioni. Con alcuni giorni di fatica notevole. Quindi io non noto la differenza, io posso fare un viaggio di 10 ore, arrivare alle 6 di mattina del giorno, dell'orario locale, lavorare tutto il giorno e non sente sento nulla. Mentre lo sento molto quando ritorno, ma questo non si insomma questo un ritorno a casa faticoso, Roberto. È un ritorno a casa faticoso in entrambe le situazioni, sia a est che a ovest. Se volate restate, ma restate anche se avete in programma di rimanere a terra, perché oggi riprendiamo il ritmo e lo facciamo col professor Roberto Manfredini. Abbiamo Roberto da Modena ancora in linea. Professor Manfredini, Roberto quando torna a casa avverte tutta la fatica del viaggio, insomma non può dire casa dolce casa, indipendentemente. Roberto, lo ringrazio perché mi dà l'occasione per poter fare una precisazione. quando noi diciamo peggio di ovest, chi lo soffre, stiamo sempre facendo delle generalizzazioni. Ognuno di noi andrebbe personalizzato, ognuno di noi ha i propri ritmi. Di solito diciamo che soffriamo di più l'est dell'ovest perché è stato calcolato che recuperiamo più rapidamente, ma non vuol dire che non c'è il disturbo. Mentre volando verso est, se ci sono 6 fusi, recuperiamo 50 minuti al giorno, per esempio, quindi vuol dire che occorrono 6-7 giorni per guadagnare 6 fusi. Quando si va a ovest si recupera 90 minuti al giorno, quindi un'ora e mezza, è molto più veloce, quindi magari bastano 3 o 4 giorni. Ciò non toglie che minimo 3 o 4 giorni o 5 o 6 o 7 ci sono. Quindi il jet lag resta, non è che scompare se si vola verso ovest, recuperiamo più in fretta. Quindi evidentemente Roberto ha un disturbo di jet lag, che disorientamento, forse il sonno, eccetera, che ha detto, come giustamente ha detto, 3 o 4 giorni lui rimane un po' imbambolato. È il minimo, perché su 4-5 fusi, 3 giorni o 6 giorni, quanto uno è veloce, ma il disturbo ce l'ha. Professore, Roberto potrebbe in qualche modo avvantaggiarsi della dieta che viene suggerita, l'abbiamo letta, è stata pubblicata anche da alcuni giornali, accorgimenti certo. Dietetici, ecco, abbiamo brava. Detto che... Brava, perché ha usato il termine accorgimenti dietetici, un po' su tutti i giornali è passato anche così, perché insomma capisco che fa più notizia la parola dieta, perché tutti leggiamo, appena leggiamo la parola dieta, la famosa dieta anti-jet lag, è uno studio che è stato pubblicato da dei colleghi americani che sostanzialmente non hanno scoperto niente, nel senso che da circa 20 anni la NASA e l'aeronautica militare degli Stati Uniti effettuavano degli studi per aiutare i piloti a sopportare meglio queste alterazioni. Sì. E questo è uno studio che è stato pubblicato pochissimi giorni fa, infatti su una rivista di medicina militare, che lo ha messo alla prova su 150 o 160 militari americani che si erano dovuti spostare in Corea e ritorno, quindi li hanno veramente studiati con questo schema alimentare, che non è proprio una dieta ma uno schema alimentare. Cosa propone? Facciamo per esempio l'esempio di quello che è uscito un po' sui giornali. Sì. Dobbiamo ricordare una cosa, quello che è uscito sui giornali è lo schema che hanno fatto gli americani per un turista o per una persona americana che viene per esempio in Europa, sì. Quindi fa un volo verso est, quindi quello se vogliamo un po' più sfavorevole, sì. Quindi quando uno lo legge non deve prendere quella dieta come una regola e deve pensare che è fatta perché si sposta verso est. Questo schema prevede di cominciare a prepararsi 3 giorni prima del viaggio, sì. 3 giorni prima del viaggio bisogna fare una dieta prevalentemente proteica, quindi una colazione e un pranzo ricchi di proteine. Stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi uno lo legge e legge uova, prosciutto, formaggio, eventualmente a pranzo una bella steak, eccetera. Quindi una dieta che ci sta molto con gli americani, prevalentemente proteica. La cena deve essere molto leggera, con del riso, una passata di verdure. Il giorno dopo, cioè 2 giorni prima della partenza, bisogna fare invece una giornata a basso contenuto calorico e a basso tenore di carboidrati. 3 pasti leggeri con delle insalate, delle zuppe, qualche fetta di pane, eccetera. Il giorno prima è lo stesso schema come dei 3 giorni prima, quindi proteine, uova, uova, prosciutto, formaggio. Il giorno del viaggio una dieta molto leggera, un po' di frutta, un po' di verdure, biscotti integrali, succhi, spremute. E soprattutto regolarsi, il viaggiatore americano che parte, quindi come dicevamo prima, arriva in Europa che è mattina, ma per il suo orologio biologico è piena notte, deve regolare il suo viaggio. Oppure noi, quando torniamo dagli Stati Uniti, invece di cadere nell'abitudine di aspettare la cena, guardare il film e poi dormire, eccetera, bisognerebbe estraniarsi, è difficile da fare, estraniarsi, prendere un po' di caffè magari alle 8 o alle 9 di sera e poi più, poi dormire e poi quando è piena notte per il fuso americano, ma già verso le 7 in Europa, farsi servire o procurarsi una colazione ricca di proteine. Quindi non è facilissimo. No. Questo perché uno dice, ma perché devo fare le proteine? Sì. O perché pochi carboidrati? Pochi carboidrati. perché c'è un movente chimico, biochimico, per una serie di reazioni metaboliche. Le proteine, quando vengono degradate, hanno dei prodotti finali che sono la tirosina, la noradrenalina, cioè comunque delle sostanze che aumentano il livello di stimolazione. Quindi ci tengono belli arzilli. Ci tengono più svegli. Invece i carboidrati facilitano un altro percorso metabolico, fanno arrivare nel cervello il triptofano, la serotonina, insomma altre sostanze che danno sonnolenza e addormentamento. Quindi questo, a prescindere dal fuso orario, una persona che alla sera fa la grande mangiata di carne, sì, fa più fatica a dormire all'occhio, la persona, esatto, all'occhio più sbarrato, sì, rispetto a chi invece mangia carboidrati. E aiutandoci con questo, ripeto, quello che hanno pubblicato i giornali era, e andrebbe detto, America, Europa, ognuno si può fare il suo schema, a seconda se va est o verso ovest, e si fa lo schema, non lo fanno gratuitamente. Non lo fanno gratuitamente, si fanno pagare il business. Si fanno, è un business, quindi anche questi scienziati vi dicono, noi vi mettiamo in rete, ed è quello che è passato su New York Times, che poi hanno raccolto tutte le testate anche italiane, gli facciamo questo esempio. È uno schema generale. Intanto per stuzzicare un po'. Esatto, poi volete il personalizzato, vi spostate non di 6 ore ma di 3, andate, non lo so, andate in Asia Minore invece che in Australia, eccetera, non c'è nessun problema, cliccate su questo sito, vi facciamo il personalizzato, ci sono anche i costi, $10.95 lo schema di viaggio di solo andata, $16.95 l'andata e ritorno, quindi è un business. E il sito è www.antijetlag.com. Sì, è il sito di questa università americana. Il professore Re ha messo a punto questa dieta e naturalmente ne traggono anche un vantaggio. Dire, si finanzieranno gli studi probabilmente. Va bene, speriamo che li impegnino bene quei soldi. Andiamo a Roma, ci aspetta Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Fabrizio, io intanto le dico subito che in linea con noi, oltre al professor Manfredini, abbiamo una cantante molto famosa, vincitrice di Sanremo nel 2008, è Lola Pons. Ciao Lola. Buongiorno, come va? Io bene, grazie. E Lola interviene nella nostra trasmissione perché il suo ultimo successo è proprio, si intitola Il segreto sta nel ritmo. E allora Lola ci racconterà come fa a mantenere o a riprendere il ritmo, e magari potrà dare anche lei consigli per vita vissuta, perché Lola è sempre tra uno spostamento e l'altro, scavalca i fusi, ma magari può dare anche un aiuto a Fabrizio, quindi aggiungendo i suoi consigli a quello del professor Manfredini. Intanto Fabrizio, arrivo da lei, ci racconti. Fabrizio? Ormai sono, sì, buongiorno. Eccolo. Sono parecchi anni ormai che per lavoro o vado a Los Angeles o vado in Oriente, cioè o in Giappone o in Corea. In questo particolare momento vado una volta al mese in Corea e ho trovato il sistema per non avere più il jet lag. Oh, magnifico. Cosa fa? No, lo mettiamo anche noi su un sito, Fabrizio, come gli americani, e facciamo, svoltiamo. Faccio molte delle cose che avete detto voi, però in aggiunta, perché praticamente la melatonina comunque la inizio a prendere 2 giorni prima di partire, prima di addormentarmi, e la prendo fino a 2 giorni dopo che sono arrivato, e questo mi aiuta anche moltissimo. Però io credo che anche siano, a parte la dieta che è fondamentale, perché se la dieta la adattiamo praticamente anche all'orario del paese dove arriviamo, questo a me aiuta moltissimo, perché mi sono accorto che anche l'attività intestinale, che è fondamentale purtroppo nel jet lag, viene facilitata. Aggiungerei una cosa fondamentale, che è quella che c'è la tendenza in aereo per passare il tempo di mangiare di tutto, dalle noccioline, l'aperitivo, il bicchiere di vino, poi se magari si viaggia in una classe più comoda magari si beve lo champagnino, queste cose così, e queste cose sono deleterie, perché poi mi sono accorto che se si beve dell'alcol, del caffè o della teina in volo, sì, poi dopo si è completamente scombussolati quando si arriva a terra e si deve cominciare a prendere un'abitudine alimentare normale. Per cui io la cosa che sconsiglierei a tutti quanti è di pasticciare in volo. Meno si mangia secondo me in volo è meglio. Leggeri in volo, Leggeri Fabrizio. In volo, e se si ha la possibilità di farlo, se si è dei frequent flyer, appunto, di chiedere dei pasti appunto ad hoc, cioè io non sono vegetariano, ma cerco generalmente di mangiare vegetariano in volo e di mangiare praticamente il minimo indispensabile, proprio perché poi quando si arriva ci si adatta subito. E un'altra cosa, forse anche scegliere dei voli, io questo l'ho potuto constatare, sì, dei voli che l'orario di arrivo sia nel pomeriggio, non di mattina. Perché quando poi davanti c'è, diciamo, la serata, tutto quanto prende un ritmo migliore, non si deve combattere, appunto, perché una volta io arrivavo in Corea alle 8 di mattina, la giornata diventava era lunga e tormentosa. E invece al pomeriggio è un po' al pomeriggio è già a metà, uno vede già il lettino. Esatto. Fabrizio, se la sentono gli americani la ingaggiano. Professor Manfredini, quante ne sa Fabrizio? No, Fabrizio ha detto delle cose magnifiche, intelligentissime, da esperto sul proprio campo. In effetti ha detto una cosa giustissima: attenzione alle bevande contenenti le metilxantine, cioè le bevande eccitanti, il caffè, il tè, il cioccolato, quindi anche e l'alcol. In assoluto, ma questo come consiglio anche al di là del jet lag, io consiglio sempre durante il volo, come ha detto giustamente Fabio, ma al di là del jet lag, di non assumere, se si può, Coca-Cola, alcol e bevande per quale motivo? Perché comunque sono delle sostanze che tendono a disidratare l'organismo. Quindi... E l'aria secca della la famosa dry air, l'aria secca della cabina pressurizzata, tende proprio a disidratare. Uno dei primi consigli a chiunque vola, indipendentemente dal fuso orario, è bere però acqua e succhi di frutta, quindi in assoluto non quel tipo di bevande. Se poi effettivamente queste danno eccitazione, quindi possono spostare l'attività dell'organismo, non va bene. Calcolate che l'unica fascia oraria neutra della giornata, se non vogliamo spostare il ritmo con le sostanze tipo la caffeina o la teina o la Coca-Cola, è il primo pomeriggio, è il momento in cui già produciamo l'adrenalina e le catecolamine. Negli altri momenti prendere tè o caffè o di mattina o di sera non può spostare il ritmo, può spostare il ritmo. Allora, dalle strade ai cieli torniamo in volo. Lola, tu voli spesso, ma il ritmo non lo perdi. No, infatti no, perché abbiamo fatto questo singolo meraviglioso con Mary Claire Duvaldo, sto felicissima, però pensa che era una canzone che io adoravo da tempo, no? E poi, bueno, è nata questa collaborazione, c'è anche il video che sto uscendo questa settimana, sì, che è felicissima, perché il ritmo in le persone, secondo me, è la cosa più importante che ci possa essere, perché infatti il consiglio di ballare, di dormire le ore che il corpo deve descansare, di lavorare anche le ore che deve lavorare, perché proprio il ritmo, la salute si trova in questo equilibrio qui, no? Il professor Manfredini lo sa bene, vero professore? Tutto il ritmo è proprio, governa proprio la nostra vita e anche la nostra salute. Intanto ovviamente saluto con piacere la nostra ospite famosa, e il ritmo è tutto, l'abbiamo nel DNA. Noi nasciamo non è una acquisizione così recente, da sempre l'uomo si accorgeva che c'erano dei momenti buoni, dei momenti cattivi, ma solo negli anni dal 2000 in poi si sono identificati i geni, abbiamo sentito prima i colleghi che parlavano della genomica, i geni che scandiscono il nostro orologio biologico, in tutte le nostre attività seguono un ritmo, ha assolutamente ragione la signora Lola. Che Lola, ti capita sicuramente di volare e dover cantare, e quindi tutto il tempo cantare e ballare, tu quali accorgimenti prendi in volo? Sicuramente che è un tempo che dobbiamo cercare almeno di canalizzare per riuscire a riposarci, no? Perché anche è molto annoiante un volo, nel mio caso che vado spessissimo nel mio paese, in Argentina o l'America, che sono viaggi di 8 ore alle 13 ore, che ne so, magari abbiamo alle volte il vantaggio di prenderlo di sera, sì. Allora se tu riesci a dormire quelle 12 ore arrivi che sei veramente nuovo, nel mio caso arrivo anche con la voce, che per me è fondamentale, no? Certo. E per queste cose io ho le mie tattiche. Allora io ho ascoltato qualcosa che hanno detto loro, in quasi tutto sono d'accordo, però particolarmente a me mi incanta il fatto di riuscire a leggere e a riposarmi magari con un libro di vino, e quello mi stende proprio, mi fa dormire benissimo. Mai sicuramente la caffeina, né il tè, perché sono comunque tutti eccitanti. Esattamente, e poi non riesci a dormire. Per un piccolissimo vino, senza esagerare, piccolissimo, proprio con un pasto leggerissimo, a me mi fa benissimo, perché nel mio caso, non siamo tutti uguali, ni lo sentiamo uguale, però nel mio caso proprio mi distende e riesco a dormire proprio tutta la sera. Quindi due dita di vino per Lola, sì, professor non Manfredini, per conciliare il sonno. Sposo in pieno, perché quando... sia Fabrizio che io, prima diciamo, no, gli alcolici, non è certo le vite di vino che assolutamente aiutano, è che molti di noi in aereo hanno ben presente le persone che o magari perché è gratis o perché comunque viene servito continuamente bottigliette di vino, lattine di birra, super alcolici, ecco, questo assolutamente, ma le ruite di vino non possono che fare bene. Lola, io ti ringrazio per essere stata con noi, ti troveremo in giro per l'Italia, mi piace, il segreto sta nel ritmo, il titolo di una canzone, ma è anche proprio vero per la vita di tutti noi. Certo, the rhythm is magic, è anche magico il ritmo, e lo dobbiamo avere in ogni cosa, perché ci fa vivere meglio, no? Ci fa vivere felici, è una cosa sicuramente fondamentale, l'equilibrio, la salute, vivere, ecco, la vita con ritmo. Grazie a Lola Pons, buona giornata, buon volo, buon ritmo Lola. Elio dalla provincia di Milano, buongiorno Elio. Oh, buongiorno. Lei ha ritmo, buongiorno. Elio? Io ho molto ritmo, tantissimo. Volevo chiedere a Lola se ballava il tango, ma sicuramente avrà sarà un'ottima ballerina di tango, ma e lì ci vuole anche ritmo. Elio, lei come fa a recuperarlo, a tenerlo? Allora, io i primi tempi, il mio primo volo, innanzitutto vi saluto, saluto il professore, saluto Lola e tutti gli ascoltatori, grazie di avermi... diciamo. Ecco, allora, dunque io mi reco due volte all'anno in Sud America per vacanza. Natale, il mese di dicembre, il mese di agosto, infatti la settimana prossima parte. Va bene. Esatto. Allora io ho risolto così. Nel primo anno, nel 2006 del mio primo viaggio, 2005, ho sofferto tantissimo. Perché non riuscivo a dormire, perché la differenza di orario con l'Ecuador sono 7 ore d'estate. Sì. Ecco, l'ho risolto in questa maniera, partendo con un volo, diciamo, da Amsterdam, KLM, se posso dirlo, ecco. Vabbè. E alle 8 di sera, e in pratica vi volo tutta la notte, per cui riposo, il giorno della partenza mi stanco tantissimo, io dormo. Dorme come un sasso in aereo, a terra, ed è un leone. No, è il discorso che non atterro, perché sono 15 ore di volo. Ecco. E in pratica, poi dopodiché cerco di ascoltare musica, mangiare frutta, bere molta acqua, niente alcolici, un caffè lo bevo volentieri. Sì. Faccio movimento, mi alzo in continuazione dall'aereo, infatti scelgo dei posti comodi, e adesso sta andando meglio. Liberi. Elio, certo, quindi tantissimo, io arrivo a casa di mia cognata giù in Ecuador, che sono la mattina alle 6, ora locale, però da noi bisogna fare naturalmente le 7 ore in avanti. Quindi, allora, grazie Elio. Professor Manfredini, a poco, a forza di volare, anche Elio si è abituato. Ma i trucchi si scoprono, nel senso che, come diceva prima anche Fabrizio, che è un frequent flyer, quindi chiaramente si è studiato il tutto. Fabrizio l'ha stupita, dica la verità. No, è molto bravo. Se uno ha la possibilità, è che purtroppo non tutti ce l'abbiamo, la possibilità di scegliersi, che è ovviamente importantissimo, un volo con una schedule di orario che possa far comodo, e di solito noi sappiamo che i voli, cercando i voli economici come facciamo un po' tutti, ti danno, cioè, quanto costa meno, quanto è il peggiore, dal punto di vista gli orari più strani, eccetera. Se uno ha la possibilità, per esempio in questo caso diceva Elio, partire la sera, poi chiaramente si fa una bella dormita, poi verosimilmente, siccome arriva alle 6, quindi lui deve arrivare in Ecuador performante, perché ha tutta la giornata davanti, una parte la dormirà, un'altra parte si tiene sveglio, legge, prende il caffè, eccetera, e arriva pronto a sopportare la mattinata sudamericana. Pensavo che pronto a sopportare la cognata, mi dicesse. Esatto. Quindi ecco, diciamo che sarebbe basilare personalizzarsi, cioè queste sono regole generali, poi in base al volo che uno è riuscito ad avere, in base all'orario soprattutto e alle regole di quando si arriva. Cominciare il dormire, il mangiare, giustamente anche un giorno o due prima, guardare l'orologio, tenere un orologio sull'orario del posto dove si andrà, aiuta allora, molto, perché uno a si regola. Poco a poco, piccoli accorgimenti, alla fine vogliamo sereni e atterriamo non stanchi. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi. Grazie ci a voi, fatto, grazie ci ha fatto grazie volare. Per ricordirmi inviti, è sempre un piacere. Ci ha fatto volare. Grazie professor Manfredini, buona giornata. E buone vacanze a tutti. Grazie. E noi abbiamo un appuntamento col professor Torello Lotti, ordinario di dermatologia all'Università di Firenze. Buongiorno professore, grazie per essere tornato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Professore, ma queste zanzare, nonostante noi ci mettiamo anche i prodotti, a volte ci pizzicano, forse non li mettiamo bene o comunque rilasciamo una parte scoperta. Io vorrei andare al dopo puntura. Ecco, ci sono delle persone che le patiscono in modo particolare. Arrivano i ponfi, grattiamo, la pelle si arrossa, a volte produciamo addirittura delle lesioni. Che cosa fare subito dopo che una zanzara ci appunto per non peggiorare la situazione? Sì, allora, le persone che sviluppano queste reazioni particolari agli insetti sono in genere soggetti atopici, cioè sono soggetti che hanno o la dermatite atopica, quegli eczemi, pruriginosi, molto comuni oggi, 4 milioni di italiani ce l'hanno, o asma o raffreddore da fieno allergico. Ecco, questi sviluppano particolari reazioni anche molto durature alle punture da insetto. E per loro cosa possono fare? Sì. Cosa fare nell'immediato e cosa fare successivamente? Beh, innanzitutto l'uso di antistaminici sia locali che per bocca. Sì. È un po' in declino invece l'uso delle pomate al cortisone, perché poi le reazioni diventano successivamente più virulenti. Sì. Si possono usare anche dei vasocostrittori associati a degli anestetici, per esempio un'associazione di benzocaina e di fenidramina è utilizzatissima. E poi ci sono delle soluzioni non già pronte, ma da preparare magari da portarsi nelle vacanze, nelle case di campagna, eccetera, che sono efficacissime. Una di quelle più note è il cloruro di alluminio in gel idroalcolico al 5%. Cosa chiediamo? È in grado di prepararlo qualunque farmacista. Me lo dica bene, che così prima di salutarci prendiamo appunto. Sì. Cloruro di alluminio. Cloruro di alluminio al 5%. Sì. In gel idroalcolico, oppure ammonio al 3,6%, sempre in gel idroalcolico. Ecco, questo ci tiene lontano dai farmaci, quindi dal cortisone, dagli antistaminici, da tutte queste cose, e ha un effetto spettacolare su queste punture. Magnifico, questo me lo faccio preparare subito. Professor Torello Lotti, io vorrei parlare con lei anche di meduse. Torna domani a trovarci? Con molto piacere, domani ci risentiamo. Allora ormai ci troviamo tutti i giorni. Grazie al professor Lotti. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, non mancate. Buonissima giornata.